avevi ragione tu, mia cara, la vita non dura mai una sera, il tempo di una follia è breve, fugge via, e poi cosa rimane dentro noi, questa celeste nostalgia, questo saperti da sempre ancora, ancora mia, mia. Il bene profondo non si offende, si spegne se il caso poi riaccende, passione violenta sì, comprendimi amica mia, tu puoi. Tutto normale fra di noi, cara celeste nostalgia, dolce compagna di storie d'amore, sempre mia, sempre mia. Istante sopra un treno, partire su un altro, andar lontano, un lampo negli occhi, ciao, d'accordo fa male, ciao, ma tu dentro di me non puoi più, azzurra celeste nostalgia, qualche parola affettuosa un po' poco però, forse no, amore mio, grande amica mia, cara celeste nostalgia, un'ora, un giorno, una vita, che cosa vuoi che sia, resti mia, amore mio, grande amica mia, cara celeste. Una vita, che cosa vuoi che sia?